L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità, del rispetto per l'ambiente. E che altro ci può essere sul pianeta della sostenibilità se non una città dal nome Ecopolis? Scherzi a parte, Ecopolis, il forum sull'ambiente urbano e la città sostenibile, riaprirà a Roma la prossima settimana, dal 23 al 25 marzo alla Fiera di Roma. Parteciperanno istituzioni, operatori del settore, urbanisti, architetti, esperti di green economy. Due i temi di quest'anno, ma li lasciamo presentare a Giuseppe Tripaldi, direttore scientifico di Ecopolis. Bentornato Tripaldi. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Terza edizione, quindi quest'anno cosa avete scelto? Abbiamo scelto due contenitori tematici, uno li abbiamo chiamati la città che mangia e la città che vive. Mi soffermo a descrivere Ecopolis nel suo complesso. Questa edizione si articola in due parti, una parte espositiva dove ci saranno aziende e istituzioni ed enti che propongono non un prodotto o una tecnologia, ma delle soluzioni per la gestione sostenibile delle nostre aree urbane. E poi invece la parte di conferenze, che appunto, come dicevamo prima, si articola su la città che mangia e la città che vive. La città che vive, abbiamo individuato due aspetti della vitalità della città, l'energia e la mobilità. L'energia è un tema tra l'altro scottante, no? In questi giorni affronterete anche le tematiche, queste ultime, relative all'energia da fonti rinnovabili in particolare? Nel senso della contrapposizione fra produzione diffusa e produzione concentrata, cercando di individuare la convenienza anche economica, siamo a Radio 24, quindi questo è un aspetto importante, la convenienza anche economica della produzione diffusa, se c'è o se non c'è. L'altro aspetto poi dopo torna a raccontarcelo, legato alle trasformazioni urbane, e cioè come l'esigenza, la necessità di muoversi produce trasformazione nelle nostre città e viceversa, come le trasformazioni urbane generano necessità di spostamenti, di mobilità. In questo senso avremo una serie di ricerche, presenteremo una serie di ricerche all'interno di questo contenitore tematico che riguardano come i comuni si muovono per i regolamenti edilizi energetici e come questi generano una vera e propria politica energetica. Vedremo alcuni esempi in Europa e in Italia di casi studio sulla mobilità e le trasformazioni, cioè come le città si sono trasformate in conseguenza della necessità di mobilità. Avremo poi una ricerca, una proposta di criteri per compatibilizzare la mobilità con le trasformazioni urbane. E infine, introdurrà fra breve Enzo Risso di SVG, abbiamo fatto insieme ad SVG una indagine su come i giovani vedono la città del futuro. Questa parola futuro la sottolineo in modo particolare perché, a mio parere, la sostenibilità è il futuro del nostro pianeta e credo che non ci sia futuro senza sostenibilità. Le due cose vanno di pari passo e sono assolutamente legate tra di loro e sono per l'appunto il nostro futuro. Tripaldi, lei ha anticipato che uno dei nostri ospiti oggi sarà Enzo Risso di SVG, l'altro è Maurizio Mariani, presidente Sotral, ma anche di Risteco, che è una spin-off di Sotral che è nata per la ricerca sulla sostenibilità del cibo. Per quanto riguarda Ecopolis, su che cosa vi siete concentrati? Che cosa avete voluto mettere al centro di questa ricerca? Ma guardi, i Clean City che è La città che mangia, un progetto pluriennale volto a favorire il dialogo sociale tra i vari attori della filiera agroalimentare ed in particolar modo a quelli, diciamo, destinati alla ristorazione fuori casa, che è un po' la nostra storia, il nostro core business di Social, appunto, che si occupa di logistica nel settore della ristorazione, e anni fa ci siamo posti il problema di cosa andavamo a trasportare, quindi siamo entrati nel mondo del cibo, nel mondo della logistica e nel mondo degli impatti ambientali connessi al cibo, non più solo relativamente alla fase logistica, ma anche nella fase di produzione, di distribuzione, di consumo e quindi del post-consumo. Sostanzialmente Eating City è una piattaforma, un progetto pluriennale che va avanti fino al 2014, che ha appunto lo scopo di mettere al tavolo su tematiche differenti, in questo caso nella fattispecie a Roma Eating City è dedicato alla regione Mediterraneo, con 3 workshop ed una conferenza pubblica che si terrà il giorno 23 marzo. I 3 workshop hanno 3 tematiche diverse, appunto una è la pesca, l'altra è pesca sostenibile e linka alla nutrizione, quindi verificare quanto la sostenibilità della pesca, quanto il mancato stress nella cattura del pescato favorisca migliori qualità nutritive del prodotto. Dopodiché c'è un aspetto molto importante, fatto attualissimo in questi giorni, che sono i flussi migratori legati all'agribusiness nel Mediterraneo, e il terzo è dedicato ai farmers market, quindi a questo nuovo modo di distribuire il prodotto con il concetto della filiera corta. Ma diciamo che comunque il vero scopo del progetto di Eating City è quello di mettere al tavolo ricercatori, professionisti, imprenditori, associazioni e la politica al fine di favorire un cambiamento di paradigma. Le città mangiano, come dice il titolo, mangiano il territorio in cui si produce il cibo, importiamo tonnellate di prodotti da paesi molto lontani e questo inevitabilmente crea e genera degli impatti ambientali importanti. Le città quindi potrebbero mangiare meglio, insomma, da quello che lei mi dice. Lascia che il cibo sia la tua medicina, non lo dico io per la prima volta, ma l'ha detto qualcuno ben prima di me. Non c'è dubbio che oggi mangiamo male, le malattie di origine alimentare crescono in modo esponenziale, l'obesità infantile, circa il 30% dei bambini in Europa sono a rischio di obesità, l'11% è già obeso, insomma, questo modello alimentare non solo non favorisce il pianeta inteso come ambiente del pianeta, ma gli stessi abitanti del pianeta. Uno degli aspetti di cui lei mi ha parlato prima, quello legato all'alimentazione e ai flussi migratori, è stato affrontato anche da SVG in una ricerca, no? Risso, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo affrontato anche questo tema. E su questo aspetto, ovviamente, poi la ricerca verrà presentata ai tempi debiti. Sull'altro aspetto, invece, su quello per il quale lei è qui ospite con noi oggi, invece, cosa possiamo dire? Il tema della città che vive. Noi abbiamo analizzato come le persone, gli italiani, soprattutto i giovani, vedono la città del futuro, come vivono quella attuale e come vedono quella del futuro. Intanto c'è da dire che il tema della sostenibilità, che sottolineava Giuseppe, è assolutamente centrale, e anzi i giovani vanno molto oltre, nel senso che l'idea di città che vogliono, per cui sono intenzionati anche a impegnarsi, è quello di una città armonica. Quindi vanno molto oltre il concetto della sostenibilità, una città dove si superino una serie di contraddizioni che oggi sono vissute come elemento di sofferenza, che sono intanto il problema della mixofobia, quindi il tema che si incrocia con le migrazioni, con la presenza di colori, odori, musiche, suoni, rumori differenti, quindi questa mixofobia che nelle realtà urbane avanza e che da parte delle persone viene vissuta come un fattore frenante a una maggiore armonia, quindi non c'è una posizione, diciamo, di chiusura verso cui arriva, ma c'è l'esigenza di conciliare tutto questo. L'altro tema è quello della mobilità e dell'energia, sicuramente il tema della mobilità come tema del fatto che oggi le città vivono la mobilità come un elemento di distruzione della possibilità di vivere in modo sereno la città. Quindi la mobilità non solo come possibilità di spostarsi, che nel futuro viene vissuta e pensata come veloce, quindi sempre più uno strumento che riduce le distanze e gli spazi, ma una mobilità che deve essere comunque assolutamente a misura di persona, a misura d'uomo, compatibile da questo punto di vista. Quindi la visione che emerge dall'indagine per il futuro sulla città è una visione di una città che sa riconnettere in modo fusionale le sue diverse anime, e quindi che diventa un luogo da vivere nel vero senso della parola, cioè un luogo dove le persone, le relazioni, gli spazi ritornano ad avere una dimensione in qualche modo relazionale, in qualche modo più autentica e più fusionale da questo punto di vista. Leggo del metodo con il quale è stata condotta questa ricerca, web discussion, che cosa vorrebbe dire? Vuol dire che le persone, sono state 20 persone selezionate sulla base di parametri statistici, quindi dovevano rappresentare le differenze di sesso, età, livello di istruzione, area di residenza, sono state tenute 2 giorni a discutere in una location chiusa su internet, dove potevano mandare foto, potevano discutere le loro idee, potevano avanzare ipotesi e potevano scambiarsi opinioni, discutere, scontrarsi, eccetera. Web discussion vuol dire appunto una discussione via web, ecco, da questo punto di vista, moderata da un nostro psicologo esperto. Quindi anche questa è del futuro, insomma, ecco, un modo di costruire, di pensare con metodi nuovi. Assolutamente, è la proposizione di una sperimentale, di una agorà, nel web, dove le persone dialogano tra loro, si scambiano opinioni, ma soprattutto riescono anche a scambiarsi emozioni e racconti, perché poi dentro si faccia conto che sono 2 giornate di discussione nella web discussion, è uscito di tutto da questo punto di vista. Torniamo un attimo a Tripaldi. Lei è giunto alla 3ª edizione di Ecopolis, quindi ormai è un esperto, insomma. Che cosa le ha dato più soddisfazioni veder crescere in questi anni? Ma la partecipazione di un pubblico giovanile proiettato verso questi nuovi paradigmi della sostenibilità, e colgo anche spunto da Risso quando parla di armonia. Stiamo ragionando e insieme anche agli amici e ai colleghi che sono in linea in questo momento, su un concetto di sviluppo armonico che quasi va oltre lo sviluppo sostenibile, in cui questa dimensione sociale, questa dimensione di futuro è esaltata ancora di più che nel concetto di sostenibilità. Lei però, non voglio neanche sapere quale sia esattamente la città in cui risiede, ma nella sua città vede questa armonia un pochino concretizzarsi? Cioè stiamo ancora su 2 piani completamente diversi, la realtà e in cui viviamo e poi la realtà in cui operano le aziende, i mercati a cui puntano? Ma io sono romano, vivo a Roma e farei una differenza fra le piccole città e le grandi città. Nelle piccole città sempre di più si diffonde una politica attiva di ricerca di una maggiore armonia, di una maggiore sostenibilità, nelle grandi città questa ricerca è decisamente più complessa, però anche solo il fatto che Ecopolis si svolga a Roma vuole dire qualche cosa. Beh, sicuramente sì. A Torino invece come va, Mariani, con l'armonia? Ma io devo dire che concordo con Tripaldi. È ovvio che per un piccolo paese, per una piccola città, è sicuramente più facile attivare le leve per uno sviluppo armonico, visto che parliamo di armonia, e per una grande città è sicuramente più complesso, ci sono tante contraddizioni, si pensi alla sola filiera agroalimentare, vogliamo mangiare il cibo locale, ma allo stesso tempo molto spesso mancano le produzioni, non c'è sufficienza cibo locale per una città da 1, 2, 3 milioni di abitanti. E poi c'è una cosa che si connette ai flussi migratori. Nel momento in cui noi abbiamo una globalizzazione ormai inarrestabile, che parte anche giusta, voglio dire, questo si contraddice con il concetto di filiera corta. Noi dobbiamo, non possiamo ridurre la varietà di cibo disponibile nelle città pensando solo di mangiare appunto il cibo locale, della tradizione, dei nostri territori, ma dobbiamo anche aprire ad un cibo multietnico al fine di favorire l'integrazione con i migranti, con le persone che dall'estero vengono in Italia e viceversa. Il tempo a nostra disposizione si conclude qui, quindi grazie ai nostri ospiti Giuseppe Tripaldi, Maurizio Mariani, Enzo Risso. L'appuntamento con Ecopolis è per la prossima settimana, dal 23 al 25 di marzo, alla Fiera di Roma. L'altro pianeta. L'altro pianeta prosegue come di consueto con l'intervista di Cristina Carpinelli. Questa settimana a Enrico Bertolino, notissimo comico, conduttore, cabarettista, per continuare a parlare di città e sostenibilità sorridendo. Smile without a reason why. Beh, Milano dovrebbe puntare innanzitutto sulla salvaguardia di quel poco verde che è rimasto, secondo me. Parlo di sostenibilità in termini anche di come presentarsi a questa bella opportunità, che rimane una bella opportunità, che è l'Expo, che però andrebbe capitalizzata in maniera differente, a mio avviso. Cioè, qui si sta parlando molto di questo momento, a quello che vedo tutt'oggi è soltanto una bella corsa alla lottizzazione. Cioè, ognuno vuole presentarsi con le mani vuote di sacco pieno, in questo caso. E dato che però potenzialmente la città rimane ai cittadini, rimarrà anche dopo l'Expo. Cioè, l'Expo non è una fiera campionaria che dopo chiude e rimane lì così a memoria. È una città che cambia, come sono cambiate le altre città. La differenza tra Shanghai, ad esempio, e Siviglia era notevole. Cioè, secondo me a Shanghai si è lavorato per fare in modo che tutto quanto procedesse poi anche dopo l'Expo, dando lustro alla città, mentre dalle altre parti il risultato non è stato così efficace. Nel particolare lei in qualche modo sta lavorando sull'informazione che deve arrivare alle persone relativa agli spazi verdi da recuperare nella città di Milano. Ma io sono stato recentemente per lavoro a Berlino e ho visto che Berlino è una città sulla quale si è lavorato molto nel verde. Vedo che ci sono molte città che stanno decidendo a livello europeo di fare i parcheggi ad esempio fuori. I parcheggi vanno fatti fuori dalla città per potenziare poi la rete di trasporti, visto che quella di Milano è una rete di trasporti che non fa invidia, che fa invidia a molti, nel senso che non è messa male, è fatta bene, ben strutturata, le linee metropolitane ci sono, esistono e stanno crescendo. Una volta terminate queste linee bisogna mettere i parcheggi fuori, non mi risulta che questo venga fatto. Continuo a sentire di parcheggi fatti nell'area urbana. Londra ne fa 400 o 500 all'interno della città e li fa per portatori di handicap particolarmente. E qui invece si continua a investire su queste aree, perché peraltro adesso rimangono poi dei buchi per terra, dei crateri, ci sono più crateri qua adesso a Milano che durante i bombardamenti del 45. Ora, è chiaro che Berlino ha avuto un'opportunità, tra virgolette, non è stata un'opportunità ma un disastro, di essere rasa al suolo durante i bombardamenti alleati. E questo ha permesso di ricostruire una città. Qui non penso e spero che non si debba arrivare a tanto, cercando di evitare un certo tipo di atteggiamento da parte di alcuni personaggi. E non parlo di destra o sinistra, non sto guardando una valutazione politica, perché la proposta che arrivava del verde verticale non arrivava da destra, ma arrivava da un candidato del PD che poi non è stato eletto. Conseguentemente l'idea del verde verticale si può fare a Copenaghen, dove sono state recuperate la zona del porto in maniera eccellente con gli architetti come Foster e Philip Stark a lavorarci. Qui invece si è voluto premiare gli ingegni e si è pensato di fare un verde verticale per recuperare cubature in orizzontale, questa è la mia opinione. Cioè, si è voluto buttare queste torri verdi per poter avere più spazio a terra per buttare giù cemento, e questo secondo me non è quello che vogliono né i cittadini né le persone normali, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo nel mondo, dove tutti stanno rincorrendo questo CO2 come se fosse oro e noi invece lo mettiamo in verticale, anche perché se Dio avesse voluto il verde verticale avrebbe fatto le mucche coi ramponi. Beh, però c'è di buono che il verde verticale non viene sporcato cercato dai cani, mettiamola così. Sì, ecco, però anche lanciare il cane per fare i suoi bisogni diventa un po' sporca ai padroni. Vedo difficile stare mio padre con un paranco su una panchina legata al verde verticale per leggere il giornale. I giardini che vengono fatti, guardi, io le parlo di una zona che è l'isola, qui ci sono dei giardini, qua intorno vengono chiamati per i diritti dei bambini, sono 20 metri quadrati o 40 metri quadrati, schiacciati contro due case, una che non va su più perché i proprietari sono stati inquisiti, e gli altri sono i progetti che schiacciano questo in una fondazione potenzialmente molto filantropica. Ecco, io di questa filantropia qua ne faccio volentieri a meno, preferisco i parchi normali, più larghi, più vasti, da poter girare in bicicletta, senza celebrazioni, senza targhe, senza commemorazioni, senza spostare i monumenti dei caduti da una parte all'altra per poi rifare. Cioè, secondo me queste sono tutte cose, operazioni di vernice. La migliore operazione da fare è far vedere che ci sono metri quadrati di verde. Una buona operazione, per non essere solo critici, è quella delle piste ciclabili. Questa è una buona operazione, che però deve essere fatta in maniera contestuale. Non può finire la pista ciclabile contro un muro o contro una transenna che verrà bloccata fino al 2020. Questa città è piena di polveri, ogni tanto si ferma la domenica per fare questo sabba dell'ecologia. Posso dirlo, è una stronzata. Adesso invece volevo parlare insieme a lei del suo progetto sul Brasile. Stiamo lavorando con la Fondazione Smemoranda per la costruzione di una posada della gioventù. Praticamente è un ostello che facciamo in una onlus che si chiama Vida a Pititinga. Pititinga è un paesino di 1800 anime a nord-est del Brasile, nel Rio Grande del Nord. In questo paesino abbiamo già costruito un asilo, abbiamo costruito una sede, grazie anche ai comici di Zeliga, ai miei colleghi, ai miei amici, ai donatori, all'azienda. Abbiamo costruito un asilo, abbiamo costruito una scuola calcio dell'Intercampus, questo non me ne voglia nessuno, ma è Moratti l'unico che mi ha dato i fondi e il marchio per farlo. E poi abbiamo costruito anche un centro sportivo. Il prossimo passaggio sarà questa posada del turismo sostenibile, come lo chiamiamo noi, che è un'altra forma di sostenibilità. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Grazie a Enrico Bertolino e grazie anche a Cristina Carpinelli per l'intervista, e andiamo direttamente all'altra nostra rubrica, articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Il microfono a Marco Carminati. Buongiorno, un cordiale saluto a tutti. Abbiamo in collegamento con noi il vicepresidente del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, il dottor Marco Magnifico. Buongiorno, dottor Magnifico. Buongiorno a tutti voi. Allora, io so che per voi sarà una settimana, da questo sabato al prossimo, di grande lavoro, perché FAI organizza la giornata di primavera. Sarà il 26 e il 27 di marzo, e quindi voi avete messo in campo tutte le vostre forze per aprire agli italiani l'Italia, per aprire un sacco di luoghi che spesso non si vedono, non si conoscono. E chiediamo a lei, visto che l'abbiamo sempre con noi, ci fa molto piacere, dove ci porterebbe lei per la giornata di primavera, FAI? Ma dunque, sono 660 i monumenti che in tutta Italia verranno aperti il 26 e il 27 di marzo, per cui veramente c'è una scelta che non finisce più. Tra l'altro 150 sono dedicati al Risorgimento. Ma oggi io vorrei parlarvi di una cosa che sembra secondaria e non lo è affatto, e quindi vorrei suggerirvi di venire con noi ad Albairate. Un momento, ci aiuti, perché Albairate non è un nome come Roma. Dove siamo? Dove siamo, dottor Magno? Allora, Albairate è un piccolissimo paese nel Parco Agricolo Sud di Milano, quindi verso Abbiategrasso, come dire. È uno di quei paesi della bassa Lombarda, tutti bassi, con le loro casine basse, dove c'è un sindaco molto civile, dove hanno fatto un incantevole museo della storia dell'agricoltura. E lì il FAI ha già recuperato un fontanile. I fontanili sono quelle strane bolle d'acqua da cui esce l'acqua tiepida e che una volta consentiva di fare 3 o 4 raccolti, e raccolti anche d'inverno, perché l'acqua consentiva di scaldare il terreno. Ecco, e qui, proprio per mettere, come dire, sul cuore dei milanesi soprattutto, la straordinaria ricchezza del Parco Agricolo Sud, che sono 47.000 ettari, una cosa straordinaria, ancora intatti, anche se corrono il rischio di essere tagliati in due da una sciagurata strada larga 60 metri e lunga 13 chilometri, che lo taglierebbe in due e che non serve a niente. E quindi ecco, la nostra nostra apertura della cascina Due Mulini, una meravigliosa cascina che si apre sulla Loggia Visconti. La loggia è un piccolo canale che fu scavato nel 1300, e questa cascina ha ancora due mulini con ben 5 ruote, 3 di ferro e 2 di legno. Ed è proprio, come dire, l'apertura vuol dire ai milanesi, ma anche a tutti gli italiani che lo vorranno, ecco, venite a vedere i terreni più fertili d'Europa, il tesoro per cui Maria Teresa d'Austria non voleva andarsene da Milano, mica perché gli piaceva la nebbia di Milano, perché forse a Vienna la nebbia non c'è, anche più salubre Vienna, ma però perché ci sono i terreni più meravigliosi, più ricchi, e purtroppo di questo oggi non si tiene conto. E quindi questo nostro invito a avventurarsi in questo parco agricolo sud e arrivare al Bairate ha proprio questo senso. Certo, tra l'altro questo tema del parco agricolo sud è stato trattato anche in una puntata precedente dalla presidente onoraria del FAI, Giulia Maria Mozzoni Crespi, che di queste zone è particolarmente esperta e anche molto affezionata. Ma quindi, direi che siamo tutti molto, certo, molto, molto lanciati a riagganciare il cordone fra i milanesi e l'agricoltura, è fondamentale. Quindi noi seguiremo i suoi consigli. C'è qualche altro luogo che possiamo andare a vedere, visto che siamo ad Albairate, nei dintorni? Beh, si può andare a vedere soltanto dal di fuori, ahimè, ma è straordinario, il castello di Cusago, che è proprio lì vicino ad Albairate, un castello visconteo straordinario, che purtroppo crolla a pezzi, con una magnifica loggia rinascimentale, e lì proprio ci si può rendere conto così della vastità, dell'apertura del paesaggio lombardo, che poi che non è piatto soltanto, ma è ricchissimo, e fra Albairate e Cusago c'è ancora, ci sono i resti di un pezzo di foresta planiziale, cioè veramente è tutto un mondo che va riscoperto e del quale i milanesi si devono davvero riappropriare, perché non venga scempiato da questa distruttiva grande arteria nuova, che davvero non serve a nulla, che è la Magenta Biategrasso. Tra l'altro hanno appena raddoppiato la linea ferroviaria al Bairate Milano, e hanno speso 600 milioni di euro le Ferrovie dello Stato, ma la regione Lombardia non mette i treni. Insomma. Quindi ecco, io direi che è proprio un'apertura un po' polemica. Naturalmente apriremo anche quest'anno ville, castelli, palazzi, ma il mio suggerimento di oggi è riappropriarsi del Parco Agricolo Sud. E noi lo seguiremo, i milanesi in particolare, che possono uscire nella bella giornata, speriamo soleggiata, di primavera, lo seguiranno senz'altro. Io la ringrazio, Tor Magnifico, ci sentiamo e ci parliamo anche sabato prossimo, perché ci sarà la giornata di primavera in atto, ma lei sarà ancora con noi per darci qualche altro consiglio. Grazie, Tor Magnifico. Grazie, arrivederci. E grazie a tutti gli ascoltatori. Questa puntata si conclude qui, grazie a tutti voi per l'ascolto. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it oppure laura.bettini@radio24.it.